Capitolo 28. Orfeo. Orfeo, figlio del re Tracio e Agro e della musa Calliope, fu il più famoso poeta e musicista mai esistito. Apollo gli donò la lira e le muse gli insegnarono a usarla, e non soltanto egli ammansì le belve, ma anche gli alberi e i massi si mossero e lo seguirono, incantati dal suono della sua musica. A Zone, in Tracia, un gruppo di antiche querce di montagna è ancora disposto secondo lo schema di una delle sue danze, così come Orfeo le lasciò. Dopo il suo viaggio in Egitto, Orfeo si unì agli Argonauti e salpò con essi per la Colchide. Con la sua musica li aiutò a superare molte difficoltà e al ritorno, sposata Euridice, che altri chiamano Agriope, si stabilì presso i Ciconi, selvaggi abitatori della Tracia. Un giorno nei pressi di Tempe, nella vallata del fiume Peneo, Euridice si imbatté in Aristeo, che cercò di usarle violenza. Euridice incespicò su un serpente mentre fuggiva e morì per il suo morso, ma Orfeo coraggiosamente discese nel Tartaro con la speranza di ricondurla sulla terra. Si servì del passaggio che si apre ad Aorno in Tesprozia e al suo arrivo nell'oltretomba non soltanto incantò Caronte il traghettatore, il cane Cerbero e i tre giudici dei morti con la sua musica dolce e lamentosa, ma fece cessare temporaneamente le torture dei dannati e placò il duro cuore di Ade, tanto da indurlo a restituire Euridice al mondo dei vivi. Ade pose una sola condizione, che Orfeo non si guardasse alle spalle finché Euridice non fosse giunta alla luce del sole. Euridice seguì Orfeo su per l'oscura voragine, guidata dal suono della sua lira. Ma appena sorse la luce del sole, Orfeo si volse per vedere se Euridice era con lui e così la perdette per sempre. Quando Dioniso invase la Tracia, Orfeo trascurò di onorarlo, iniziando invece i suoi fedeli ad altri misteri e condannando i sacrifici umani. Gli uomini della Tracia lo ascoltavano con reverenza. Ogni mattina egli si alzava per salutare l'alba dalla sommità del monte Pangeo e affermava che Elio, da lui chiamato Apollo, era il più grande di tutti gli dei. Irritato, Dioniso incaricò le Menadi di far vendetta. Esse raggiunsero Orfeo ad Eio in Macedonia. Attesero che i loro mariti fossero entrati nel tempio di Apollo e, impadronitesi delle armi, irruppero nel recinto sacro, uccisero tutti gli uomini e fecero a pezzi Orfeo. Gettarono nel fiume Ebro la sua testa che galleggiò, sempre cantando fino al mare, e fu portata dalle onde all'isola di Lesbo. Le muse piangenti raccolsero le membra di Orfeo e le seppellirono a Libe tra i piedi del monte Olimpo, là dove il canto degli usignoli è ora più dolce che in qualsiasi altra parte del mondo. Le Menadi tentarono di purificarsi del sangue di Orfeo nel fiume Elicona, ma il dio del fiume si tuffò sottoterra ed emerse 4 miglia più in là con nome diverso, Bafira, e così evitò di divenire complice del delitto. Si dice che Orfeo avesse condannato la promiscuità delle Menadi e predicato l'amore omosessuale, attirandosi così l'ostilità di Afrodite oltre a quella di Dioniso. Gli altri Olimpi, tuttavia, giudicarono che il delitto non era perdonabile e Dioniso salvò la vita delle Menadi soltanto trasformandole in querce che rimasero radicate al suolo. I Traci sopravvissuti all'eccidio decisero di tatuare le loro mogli per punirle ed evitare che in futuro uccidessero sacerdoti, e l'usanza è praticata ancora oggi. Quanto alla testa di Orfeo, dopo essere stata assalita da un serpente geloso che Apollo trasformò in pietra, fu deposta nella grotta di Antissa, sacra a Dioniso. Colà profetizzò giorno e notte finché Apollo, vedendo che i suoi oracoli a Delfi, Grinio e Claro non erano più frequentati dai fedeli, si recò nella grotta e gridò alla testa di Orfeo: «Cessa di interferire nel mio culto! Ti ho sopportata abbastanza!» E da quel giorno la testa tacque. Anche la lira di Orfeo fu trasportata a Lesbo dalle onde, deposta nel tempio di Apollo. Per intercessione di codesto dio e delle muse, la sua immagine fu posta in cielo e divenne la costellazione della lira. Altri danno una versione del tutto diversa della morte di Orfeo. Dicono che Zeus lo uccise con una folgore per aver divulgato i segreti degli dei. Orfeo, infatti, istituì i misteri di Apollo in Tracia, quelli di Ecate a Egina e quelli di Demetra sotterranea a Sparta. La testa di Orfeo che canta ricorda quella del dio Bran decapitato, la quale, secondo il Mabino Gion, cantava dolcemente sulla roccia di Harlech nel Galles del Nord. Una favola che si riferisce forse agli zufori funebri fatti di scorza di Ontano. Il nome di Orfeo, dunque, se davvero significa «O fruioes», sulla riva del fiume, fu forse l'appellativo del corrispondente greco di Bran, Foroneo o Crono, e si riferisce all'Ontano che cresce sulla riva del Peneo o di altri fiumi. Il nome del padre di Orfeo è Agro, della sorbola selvatica, si riferisce al medesimo culto, poiché la sorbola o mela acidula, in francese Alisier, e lontano, in spagnolo Aliso, portano ambedue il nome della dea del fiume Alis o Elis, regina delle isole Elisie dove Foroneo, Crono e Orfeo si recarono dopo la morte. Aorno è l'Averno, una variante italica del celtico Avalon, l'isola dell'albero di mele. Secondo Dioniso Sicuro, Orfeo avrebbe usato l'antico alfabeto di 13 consonanti e la leggenda che fa di Orfeo un musico prodigioso che ammansiva le belve e induceva gli alberi a muoversi si riferisce alla sequenza stagionale di alberi e animali simbolici. Come re sacro, egli fu ucciso da una folgore, cioè colpito dalla bipenne, in un bosco di querce durante il solstizio d'estate e poi smembrato dalle menadi, seguaci del culto del toro come Ateone. Le menadi, in verità, rappresentavano le muse. Nella Grecia classica soltanto i traci praticavano l'arte del tatuaggio e in una pittura vascolare che rappresenta Orfeo, una menade mostra sull'avambraccio un piccolo cervo tatuato. Codesto Orfeo non si oppose al culto di Dioniso, poiché egli era Dioniso, e suonava il rustico zufolo di scorza di Ontano, non la raffinata lira. Così scrive Proclo. Orfeo aveva una parte di capitale importanza nei riti dionisiaci e si dice abbia subito la medesima sorte del dio. Apollodoro gli attribuisce l'istituzione dei misteri dionisiaci. Il nuovo culto del sole come padre di tutte le cose pare fosse stato portato nell'Egeo settentrionale dai sacerdoti profughi del culto monoteistico di Akhenaton nel XIV secolo a.C. e si innestò poi sui culti locali. Ecco perché la leggenda parla di un viaggio di Orfeo in Egitto. Tracce del culto solare si trovano in Sofocle, dove si parla del sole come della fiamma più antica cara ai cavalieri traci e del signore degli dei e padre di tutte le cose. Pare che gli elementi conservatori in Tracia si fossero opposti tenacemente alla nuova religione, soffocandola nel sangue in alcune parti del paese. In seguito i sacerdoti orfici, che indossavano un costume egiziano, chiamarono Dioniso il semidio dall'Epifania taurina di cui mangiavano la carne cruda, riservando il nome di Apollo per il sole immortale. Distinguevano così Dioniso, il dio dei sensi, da Apollo, il dio dell'intelletto. Ciò spiega perché la testa di Orfeo fosse conservata nel tempio di Dioniso e la sua lira nel tempio di Apollo. Sia l'una sia l'altra si dice andassero alla deriva fino all'isola di Lesbo, che era il centro della musica lirica. Terpandro, il più antico musico la cui esistenza sia storicamente accertata, era originario di Antissa. L'attacco del serpente alla testa di Orfeo si riferisce o alla protesta di un eroe oracolare più antico contro l'intrusione di Orfeo ad Antissa o a quella di Apollo Pitico, come Filostrato afferma in modo più diretto. La morte di Euridice per il morso di un serpente e il fallito tentativo di Orfeo di riportarla alla luce del sole figurano soltanto nella versione più tarda del mito. Tale versione pare sia stata erroneamente tratta da rappresentazione di Orfeo nel Tartaro, intento a suonare la lira per indurre la dea serpente Ecate o Agriope, volto selvaggio, a concedere speciali privilegi a tutte le ombre che erano state iniziate ai misteri orfici, oppure da un'altra raffigurazione di Dioniso, di cui Orfeo era sacerdote, mentre scendeva al Tartaro per cercare la madre Semele. Erano le vittime di Euridice e non Euridice stessa che dovevano morire per il morso di un serpente. Il mese dell'Ontano è il quarto nella sequenza sacra degli alberi e precede il mese del Salice, associato con la magia dell'acqua della dea Elice, Salice. I Salici diedero il nome anche al fiume Elicona, che si snoda attorno al Parnaso ed è sacro alle muse, cioè alla triplice dea montana dell'ispirazione. Ecco perché nell'affresco di un tempio a Delfi si vedeva Orfeo appoggiato a un salice e che ne sfiorava i rami con le mani. Il culto del lontano fu soppresso in Grecia in tempi antichissimi, ma ne rimasero vestigia anche nell'epoca classica. Gli ontani cingono l'isola della morte ove ha sede la dea maga Circe, la quale ha anche un bosco cimitero di salici nella Colchide. Secondo Virgilio, le sorelle di Fetonte furono mutate in un boschetto di ontani. Ciò non implica naturalmente che la decapitazione di Orfeo fosse una semplice metafora per descrivere lo scapezzamento di un ontano. Il re sacro doveva per forza sottoporsi al supplizio dello smembramento e può darsi che i traci seguissero l'usanza dei Dayaki Iban e dei moderni Sarawak. Quando gli uomini rientrano dopo una fruttuosa spedizione di caccia, le donne Iban si servono della testa della vittima più cospicua per fertilizzare i campi di riso. Tale testa dovrebbe cantare, piangere e rispondere alle domande. Viene cullata teneramente in grembo finché consente a entrare in un tempio, dove dà consigli in ogni circostanza importante e, come già le teste di Euristeo, Bran e Adamo, respinge gli invasori.